Buongiorno, si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Ho visto un re. Se la riscusa? Ho visto un re. Ah, beh, sì. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime. Ma tante che? Bagnava anche il cavallo. Io posso pensare di barattare il fatto di restare attaccato alla poltrona e di non fare le cose. Oh, di gente che non ha fatto le cose in Italia, che non ha avuto coraggio, c'è neanche troppo. Io vado avanti. Mi mandano, i signori del Parlamento hanno l'occasione di mandarmi a casa se vogliono. Se vogliono mandarci a casa ci mandino a casa. Quindi è povero anche il cavallo. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh. Quando Berlusconi dice che lei è bulimico di potere, sbaglia, che è una critica che non lo fa. Mai mi permetterei di dire che Berlusconi sbaglia. Io le dico che noi abbiamo un'idea e l'idea è più forte della poltrona. Mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, ah, beh, sì, beh. Accetto anche di fermarmi. Possono mandarmi a casa, ma non possono fermarmi. Pensa che il PD si spaccherà? Perché dovrebbe spaccarsi? Oh, per Cristo! 32 che lui cena. Povero vescovo. È povero anche il sacrista. Sì, beh, ah, beh, sì. Perdonatemi, è democrazia il sistema in cui si vota e si decide a maggioranza? Ma se passa... È anarchia il sistema in cui Presidente, ci si ferma se... e non decide nessuno. Ma se... Il tapino. Ci siamo. Ci siamo. All'alba della 104esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Ci siamo, cari ascoltatori. Io per l'occasione mi sono pure buscato la febbre. E così. Il vescovo di Natale, Diego Lopez. Non è finita, la rimettono dentro e Badu fa 2-0. Ciao Peter Biscapea, che te in regia. Ti ringrazio. Non è che ho preso la febbre dopo l'ennesima sconfitta del Milan, sennò quest'anno mi sarei beccato di tutto, anche la scabbia. Vabbè, questa è 24 mattino, ce la farò. Sono le 6:31 minuti, chiederò un aiuto a Lorenzo Nespoli in redazione, ai miei due ospiti che saranno pimpanti, pimpantissimi, pimpanterrimi, perché siamo alla settimana decisiva per la legge elettorale. Chissà, chi lo sa, non so. Intanto voglio salutare Alessandro Robecchi. Buongiorno a tutti. Un interista in punito che è la seconda settimana decisiva per lo scudetto della Juve. Sì. Però dentro il Cadur il movimento, ecco il suggerimento per Damian che lo mette in mezzo. Però, Fabio Quagliarella. Voglio salutare Federico Novella che fa rima con Quagliarella. Eccola qua. Buongiorno, te la sei preparata questa sera? dai, deve segnare Quagliarella, non importa. Perché fa rima. Però va bene, ci piace lo spettacolo, anche se insomma non è stato esattamente un bello spettacolo quello che è andato, visto ieri. Che vergogna, però. Ma sapete cosa ho letto oggi? Una delle persone arrestate, un tifoso del Torino che ha lanciato una pietra contro l'autobus della Juventus. Io non ci volevo credere, ho dovuto rileggere tre volte. Era un signore che stava andando allo stadio con il figlio in braccio. Sì, è come se quando ti avvicini allo stadio cominci a sentire la bolgia della curva certo. E ti trasformi in un teppista, anche se sei un pensionato con la minima, che probabilmente l'unica cosa di trasgressivo che ha fatto è invece un bicchiere di vino. No, ma ragazzi, ma c'è mai col bambino in braccio? Scusa, dice neanche l'ho appoggiato giù. Aspetta un attimo, che devo lanciare una pietra al pullman della Juventus. Che tra l'altro, tesoro. Che tra l'altro, se sei pensionato con la minima, sei forse l'unico che c'ha diciamo così, una giustificazione a fare il teppista. No. Sì, ma non contro, adesso, non contro l'autobus della Juve. Non esageriamo. Il pullman della Juve, certo. Non esageriamo, Robecchi, che poi dopo ti vengono a prendere. Battuta. Ti vengono a prendere. È satira. Fa come Vincino. Quando è così tu devi dire come Vincino, ma io faccio satira. Faccio satira. Bravi. Allora, Federico Novella, com'è andato il weekend con Michele Santoro? Tutto a posto? Sì, il weekend, sì, più che altro la coda della settimana è stata molto divertente con Michele Santoro, però vabbè, la questione è superata. Io l'ho perdonato per quanto mi riguarda. Hanno litigato un po' per questa Robecchi, tu l'hai seguita queste zingarelle? No, ma dai, le zingarelle che hanno detto rubiamo, e Santoro l'ha intervistata dicendo le hanno pagate, per dire così, insomma, si sono arrabbiate. Esatto, adducendo grandi prove, cioè zero per questa cosa, e quindi ci siamo un po', c'è stato un minimo di frizione, ma abbiamo fatto pace, dai, la cosa è superata. Avete fatto pace. Allora, dai, Santoro con le zingarelle? Con Santoro e con le zingarelle, con le zingarelle meno, però soprattutto... Certo, Santoro fa rima con toro, quindi non lo so, è un po' in questo momento... Oggi sei molto poetico, Quagliariella fa rima con novella, Santoro fa rima con toro... È la febbre. Fa rima con le hanno prese. Sono deliri di febbre. Esatto. Allora, apriamo subito il Parlamento, avanti... Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Caro Robecchi, ti è piaciuta la scelta di Ho visto un re? Per Renzi? Molto. No? Omaggio ai maestri, certo, come no. Grande Iannacci. Grande Iannacci, interista. Vabbè, ma cosa c'è che va male nel discorso di Renzi? Dice, abbiamo discusso per mesi e mesi, adesso la legge elettorale la facciamo. Se volete, mandatemi a casa. E infatti non ci trovo... Non fa una grinta, l'abbiamo discusso, fa un po' ridere, nel senso che ha discusso lui e chi diceva qualcos'altro era gufo, conservatore, eccetera, eccetera. Lui con i suoi, è un po' come la riforma della scuola, abbiamo ascoltato tutti, poi appena gli studenti dicono qualcosa non hanno voglia di studiare, appena gli insegnanti dicono qualcosa sono teppisti, sono squadristi, e quindi sì. è uno strano discutere. Diciamo. Vabbè, ma hanno discusso, cioè, voglio dire. Lui dice però adesso basta, non se ne può più di gente che non decide. È un po' lui punta su questo aspetto, ed è un aspetto che secondo me molti italiani condividono. Molti no, però, perché dipende anche, non è che la decisione in sé è un valore, dipende da cosa decide, cioè, vabbè, io finalmente lui decido di buttarmi dal balcone, non è una bella decisione. Ma infatti lui dice votatemi contro e mandatemi a casa se non vi va bene, avete i numeri in Parlamento per cacciarmi? Fatelo, se no, se poi dopo la voteranno questa legge elettorale, non è che può avergli messo una pistola alla schiena per votare. Ma dice così perché è tranquillo, perché sa che il partito di Verdini lo vota tranquillo, dai. Ah, il partito di Verdini, hai capito, sì, novella, c'è l'inciuccione. Sì, ma sì, alla fine non possono fare altro, però è vero che l'ha discussa molto con Renzi, con l'ex sindaco di Firenze e anche con Matteo, quindi l'ha discussa un po' con tutti i personaggi che contano in questa storia. Anche con Luca Lotti si sono trovati. L'ha discussa con l'amico di Obama, l'ha discussa con tutti, è vero. Bravo novella. Ecco. Quello il fatto, capito? Anche con Obama e devo dire anche... Aspetta un attimo, che succede? Non mi si apre la sbarra. No, come? C'è il telepass scaduto? La sbarra del casello non mi si apre. C'è il telepass scaduto? Aspetta. Suona un attimo la signorina. Come mai non si apre? Mi fa un biglietto allora? Ce l'ha un biglietto? No, non ce l'ha un biglietto. Rimarrai lì tutto il giorno. Non va oggi. Non va. Come piccinini, non va. Ti richiamo dopo, risolvo questa cosa e arrivo. Ci metto un attimo. È fantastica sta roba. Cioè, capito, conta più una sbarra della tangenziale di un programma in diretta. L'hanno sbarrato, poverino. Robecchi, ma che dobbiamo fare? Proprio, siamo solo noi. Verità, no? Dopo la TV verità c'è la radio verità. C'è la radio verità. Allora, ci fai sapere. Ma devi mettere... La sbarra verità, però. Devi mettere veramente giù. Io al momento sono ancora piantato a Sesto San Giovanni, ma forse per quelle frasi che ho detto su Renzi. È una cittadina straordinaria, è la mia città natale, ricordati. Quindi sì, però da questa visuale non è proprio il massimo, devo dire. Cioè, vedo solo la sbarra da qua. Vabbè. Invece lungomare di Stezio San Giovanni è un qualcosa che lascia sconvolti, ti entra nel cuore soprattutto al tramonto e non ti molla più, devo aver detto qualcosa di scomodo perché qua non si apre. Vabbè. Non riesco a capire se è a causa mia. Stai simulando indifferenza ma stai vivendo un dramma incredibile perché sì ma eccola qua che si apre. Salutiamo la sbarra, si è aperta. Vediamo un po' se tutto a posto? Perfetto. Vabbè. Sì, c'era quel piccolo ritardo. Tipo sono salvo. È salvo. Vabbè, Robecchi, quindi no, il problema è che adesso ho letto anche che ci sono 100 del PD che devono decidere in questa crisi di coscienza tra la fedeltà al partito o la fedeltà alla propria coscienza, cioè votare contro, forse anche la fedeltà alla poltrona, perché si sa che andare a casa poi non è il massimo. Ma perché tu sei sicuro che se invece passa l'Italicum quelli non vanno a casa? Ah, è vero, è una lettura anche questa. Solo decidere di che morte morire, ma alla fine purtroppo... Cioè tu stai dicendo, Robecchi, che si va a votare anche se passa l'Italicum? Se passa l'Italicum, tra qualche mese si va a votare con l'Italicum. Se non passa l'Italicum è probabile che si vada a votare con il Mattarellum, ma meno probabile, secondo me. E quindi... Se insieme alla coscienza e alla fedeltà di partito riflettono sulla permanenza della poltrona, io sarei per votare contro l'Italico. Diciamoglielo che magari ci pensano. Magari non lo sanno, magari non hanno fatto questa. Non si rendono conto che votando l'Italicum forse si va a votare comunque. Vabbè, sentite qua che cosa prevede di fare il Movimento 5 Stelle di Battista ieri a Sky. Sentite. Ma con 1,5 milioni di bambini oggi in Italia che vivono sotto la soglia di povertà, con 9 milioni di poveri, con i morti nella terra dei fuochi, con la corruzione che si è infilata dovunque, con la distruzione della scuola pubblica e della sanità pubblica, la priorità di questo paese è l'Italicum? Ecco, questa è la priorità dell'Italicum e Di Battista annuncia delle azioni extraparlamentari. Anche per salvare la Costituzione abbiamo fatto dei gesti che poi molti hanno condannato, cioè siamo saliti sui tetti per accendere dei fari sulla violazione e sulle violenze nei confronti della Costituzione. Noi il 9 maggio saremo in marcia per marciare a favore di un reddito di dignità in contrasto della povertà. Cioè noi abbiamo sempre utilizzato e continueremo a utilizzarle per rispondere alla domanda e lo faremo delle mosse, delle azioni extraparlamentari, perché oggi il Parlamento è totalmente esautorato. Azioni e se all'interno del Parlamento non c'è libertà, che pensano di fare novella, il fatto secondo che te? Ma non lo so, si incateneranno davanti a Montecitorio, non lo so. Dentro Montecitorio mangeranno l'Italicum a brandelle, cioè non saprei, però è anche vero che questo comunque, ripeto, come diceva Robecchi, alla fine Renzi vincerà, perché Renzi è più forte, perché Renzi si presenta come il nuovo contro il vecchio, cioè gli avversari di Renzi sono tutti quei politici, questi in questi vent'anni hanno detto faremo una legge elettorale giusta e corretta e non l'hanno voluta fare. Oggi posso dissentire? Però oggi la stampa, guarda che ricorda Prodi 9 anni fa, cambieremo il porcellum, assolutamente, è fondamentale. Guardi che negli ultimi 20 anni la legge elettorale è stata cambiata, ne hanno fatta una è stata cambiata. Anticostituzionale, sì, e quindi direi intanto quelli che hanno fatto una legge elettorale anticostituzionale dovrebbero avere la decenza di andare a casa e liberare quello quelle poltrone. Però agli occhi degli italiani erano quasi tutti della destra comunque. Infatti ti sto dicendo, agli occhi degli italiani che non sanno neanche cosa sia probabilmente la legge elettorale, la legge elettorale funziona se i governi restano in piedi. Siccome in questi 20 anni i governi saltano al minimo terremoto, no? E infatti ne cambiano uno ogni 6 mesi, Renzi adesso arriva e dice: io non ho avversari, io la legge elettorale la faccio come voglio e i cittadini mi daranno comunque ragione. Insomma, forte della sua forza politica, lui dice. Posso dissentire ancora? Ma puoi dissentire, sono... giocato tutti i bonus. Lo so, ma mi spiace. Sei mi un dissenziente. Io ero piccolino, per carità, ricordo però che le grandi riforme in questo paese, penso per esempio al sistema sanitario nazionale che tutto il mondo ci invidia, furono fatti quando c'era il proporzionale, i governi cadevano ogni 6 mesi e c'erano il Senato e la Camera che funzionavano col bicameralismo perfetto, quindi dire che queste cose impediscono di fare le riforme è una scemenza. Diciamo che non sono capaci più di farle, ma una volta si facevano, pur con tutte quelle cose che adesso sembrano pur andando a votare. Era un sistema diverso, un po' diverso. Prima cambiavano i governi, ma non cambiavano le maggioranze. Allora fatemi sentire un amico di Robecchi, Salvini, che è sull'Italia. non è tuo amico. No. Ma se diventa sindaco di Milano, tu cosa fai? Ma se su San Giovanni io ho un accordo per l'asilo politico. Si fa fare l'asilo politico a Sesto San Giovanni. Salvini. È una legge che fa schifo, ma con i problemi che ci sono in Italia e nel mondo, che Renzi stia passando il suo tempo e stia impegnando il Parlamento non sulla legge Fornero sull'immigrazione, ma su una legge elettorale che gli serve a salvarsi le chiappe, è veramente infame. Renzi ha detto che se non passa l'Italicum il governo cade. Ma io spero che Renzi vada a casa ieri, perché danni non sta facendo. Quindi che se la legge elettorale serve a questo. Che ride così? C'era Robecchi forse. No, io non ho riso. No, neanche io ho riso. No, voi ridevate. Non ridevate della battuta di Salvini, io lo so, ridevate della battuta di Salvini. Vabbè, allora, visto che è un quarto d'ora che stiamo parlando di legge elettorale, una cosa inaudita anche per me, all'alba della 104esima settimana decisiva, chiudiamo questa pagina con la Boschi che ha sempre queste S, queste C che cantano, che suonano, che insomma... No, Renzi ha detto che decideremo martedì intanto se mettere la fiducia o meno, ma ha detto ovviamente che è una scelta importante perché è un passaggio cruciale per la vita del governo, essendo una ovviamente delle riforme su cui abbiamo puntato. Secondo me la lettera migliore è la T quando la pronuncia Federico Novella, cioè proprio la T. No, ma ormai noi non ascoltiamo più cosa dice, ma come lo dice. Quindi può dire qualsiasi cosa. Può anche leggere le istruzioni del detersivo per i piatti. Sì, ma poi una donna che non ha paura di dire quello che pensa Renzi. Vabbè. Le battutone di Robecchi. Dai, andiamo a sentire il traffico. Poi voglio chiedere qualcosa dell'Expo, perché è una settimana dall'Expo. Robecchi ci ha anche scritto più. Si può dire che hai scritto un libro? No, non si può dire. No, però ha scritto questo giallo ambientato anche nella Milano dell'Expo. Insomma, era un modo per farti pubblicità. Adesso tu, Robecchi, anche se mi tieni la corda, magari io no. Vabbè, insomma, dai, il traffico. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo e le corna belle. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta 24 mattino. Allora, dopo 3 anni, Giovanni Lo Porto si sa che è morto a causa di un raid americano. Ecco, dopo 3 anni. Ma in questi 3 anni, mentre gli americani, giusto o sbagliato, hanno fatto qualcosa, adesso ci saranno le solite polemiche, gli italiani per liberarlo, che cosa hanno fatto? Imito Adinolfi, che parlamento di merda, si parlava della morte di quel ragazzo nell'interpellanza davanti a Gentiloni, il parlamento vuoto. Alessandro, sto su Twitter e sto vedendo il tuo programma, tutto. Perché ti presenti con gli occhi abbassati? Solo la zucca? Non ti può far vedere tutto il viso? È peccato però, perché tutti hanno la loro fotografia e te solo la zucca, solo quei 4 capelli. Ciao. A grande richiesta, ora sulla fanpage Facebook di 24 mattina potete trovare la petizione Milan inizia alle 6. E io per la terza volta di fronte a questa petizione dico... poi quella che allora devo svelare questo segreto, ho la foto a metà su Twitter, cara signora. Come Juan, ti ricordi Juan a Bim Bum Bam? Cioè la foto ho la foto a metà, perché quella è la prima foto che mi ha fatto mia figlia, ma ha preso la macchina fotografica e ha detto papà ti faccio una foto, e me l'ha fatta così a metà, e io sono talmente affezionato a quella foto. Mozione degli affetti di Milan. Ma comunque se uno vuole vedere una foto va sul sito e lì ci sono, non è venuta mia figlia a fare le foto a Radio 24, quindi ci sono anche delle foto dove è vestito. Ma ci sono delle foto scabrose anche? No, ma che scabrose? Ma quale scabrose? Tutti a vedere, tutti a googlare. Adesso. Tutti a googlare, a googlare. Non ci sono foto scabrose, c'è poco da scabrosare. Allora, l'Expo, io non capisco questo, lo attendiamo tutti come un tifo da stadio, no? Anche questo, gli Expo ottimisti e poi ci sono gli Expo gufi, cioè Robecchi è uno di questi. Per no, io anche mi dissocio. Mi dissocio, vorrei fare una piccola parabola su questa roba. Cioè 8 anni fa una signora ci ha detto che compravamo la Porsche e che questo avrebbe portato tanto lavoro, costava tanti soldi ma portava 70.000 posti di lavoro, cambiava la città, vedrai che figata. 8 anni dopo ci consegnano una Lambretta e se uno dice ma veramente io mi aspettavo una Porsche diventa gufo. No, sarà una bellissima Lambretta, ragazzi, funzionerà, sarà un ristorantone bellissimo, vedrai, sarà bellissimo. Ho capito, ma è una Lambretta, cioè, non è la Porsche che hanno promesso. Ma chi lo sa, cioè dicono che sono in arrivo tantissimi cinesi per esempio per fare affari. Se il successo si misurerà in questo, se riusciremo a intercettare persone che verranno a investire. Sì. Certo che se misuriamo tutto con i biglietti staccati, quello sì, i biglietti. Lo so, però tutte le cose che ci hanno promesso intanto non ci sono. Quindi diciamo, noi abbiamo pagato una Lambretta con una Porsche e adesso veniamo caldamente invitati a dire che bella Lambretta. Capito il comunista Robecchi che voleva la Porsche? No, ma per certi versi ha ragione. Cioè diciamo che adesso essere ottimisti sull'Expo si può, probabilmente anche si deve, però è un atto di fede. Cioè ci avevano promesso l'autostrada, tutti i padiglioni realizzati, il naviglio navigabile, ti ricordi? Sì, adesso come no? La casa del gusto, la casa della giustizia, la casa dello sport, casa della giustizia, dove vai lì e ti fanno le la sentenze cittadella della giustizia, ti fanno le sentenze in 448, sono tutti i palazzi di giustizia nuovi in un'area vicino a Roma, grossi investimenti che non si sono fatti, insomma. C'è nulla, e poi ci dicono fidatevi di noi, andrà tutto bene. Vabbè, fidiamoci, però io pensavo che dopo tutti questi soldi spesi non bisognasse fidarsi, no? Invece no, bisogna fare un atto di fede. E che dobbiamo fare? Ma che sai che io con gli atti di fede, porca miseria, non vai molto d'accordo. Non vai molto d'accordo, e vabbè, che devi fare? Vabbè, comunque il libro che Robecchi ha scritto. Eccolo là. Era Dove sei stanotte, che un pochino è ambientato anche a Milano dell'Expo, va bene così? Sì, benissimo. Ottimo. Milan caffè pagato, ottimo. E vabbè, ma novella, che cosa potrà succedere di così disastroso in questa Expo? Cioè non ho capito. Sì, va bene, le promesse non hanno fatto quello che dovevano fare, però non lo so, sai, se ti metti a fantasticare su cosa può andare male, in realtà la scelta è sconfinata. Speriamo solo, visto che vedo che adesso i giornalisti fanno a gara per portare lo scoop. Ho portato una pistola finta dentro l'Expo, ho portato un caciocavallo dentro l'Expo. Esplosivo. Ecco, speriamo che nessuno possa farsi venire in mente queste idee, insomma, malsane, visto quello che è successo al Tribunale a Milano. Sì, poi visti i ritardi, il mio consiglio è che se volete andare a mangiare l'Expo verso la fine di settembre, ordinate gli antipasti adesso. No, vabbè, adesso. Portatevi avanti. Sì, venite già mangiati. Ma perché? Non ordinate il risotto perché ci vuole tempo per farlo. Addirittura. 2 anni. Vabbè, intanto dai giornali sì, un po' colloso rimarrà. Però. Dai giornali oggi leggo che la spending review secondo Repubblica vogliono risparmiare 10 miliardi quest'anno, ne mancano 4, non sanno dove trovarli, non so, Robecchi magari si sa. Dai, Milan, fai uno sforzo, dagli sti 4 miliardi, poi se ne parla. Vabbè, infatti, io li devo un po' cercare nelle tasche, comincio a frugare nelle tasche. E poi, ragazzi, io vorrei capire un vostro parere su Varoufakis. Varoufakis è un personaggio che mi incuriosisce tantissimo. L'ultima è che tutti i ministri dell'Eurogruppo hanno detto che è un dilettante, un cialtrone, uno incapace, eccetera. E lui risponde così oggi: mi sento come Roosevelt, odiato da tutti, che l'odio sia il benvenuto. Hai capito? La Varoufakis è Roosevelt o è un cialtrone? Questo, di questo si stanno interrogando un po' tutti. Ma ci dai solo queste due, no, non lo so, due possibilità? Pare, questa è una via di mezzo, no? Pare che sia così, pare che sia ormai una... Comunque messa come l'Europa, che i ministri economici dell'Europa diano del dilettante a qualcuno, è un po' come, diciamo, che Ray Charles che dice agli altri che non sanno guardare i quadri. Diciamo che fa simpatia adesso che l'hanno attaccato tutti. No, ho capito, ma fa simpatia, però la questione è che non si capisce bene che tipo di riforme voglia proporre, se vuole proporre qualcosa, cioè fa le supercazzole, questo pare. Allora, pare che quando vada nei consessi europei a parlare, dire facendo così, così, così, finiscono, e gli altri ministri si mettono le mani nei capelli, cioè, come dire, hanno a che fare con uno, come se andassi io a dire, va dunque, allora tagliamo un po' qua, poi le pensioni, poi il turismo, no? Cioè, questa è un po' la sensazione di... Un po' come qua quando dicono, recuperiamo 75 miliardi dall'evasione fiscale. Più o meno un po' è così. Guarda, se vai a vedere, secondo me è poi così diverso dagli altri, non è. Magari non è un po' più ruspante, un po' più selvaggio, lo vedi come si vede. Vabbè, no? Ma è un marxista lui. Però ci farei un po' la tara, perché quando uno dice una cosa e tutti gli altri sono contrari, per motivi, diciamo, politico, economici, ideologici, è chiaro che il primo attacco è quello cretino. Andrei a vedere un po' più dentro le cose, nel senso che non è che la politica economica dell'Europa negli ultimi 10 anni invece sia stata gestita da geni. Quindi voglio dire, viva Varoufakis, abbiamo salvato anche Varoufakis. Ma no, viva no, però insomma non è Roosevelt ovviamente, e non è, e probabilmente non è neanche un cialtrone. Io credo che un cialtrone è lì, non ci arriva. Io lo rimanderei a settembre. Infatti, come ne riparliamo? Rimandato a settembre. Vabbè, Federico Novella, sei arrivato a Mediaset, la sbarra di Mediaset. Sono arrivato, sì. Oggi praticamente ho passato la mattina saltando le sbarre, cioè sì, come Sergei Busca praticamente. Sembravi Edwin Moses nei 400 ostacoli. Novella, ti fa l'autoriduzione del pedaggio autostradale. Sì, ma secondo te ha pagato Rovecchi con tutta questa casina? Ma no. Cioè, hai pagato? Mi stanno inseguendo. No, mi stanno inseguendo. No, perché secondo me, con questa scusa, tu non hai pagato il pedaggio a Sesto San Giovanni. No, qui ho una bellissima ricevuta di mancato pagamento. Che probabilmente si caricherà di interessi tipo Equitalia. Cioè, sì. È capitato anche a me una volta. Basta che vai su internet dopo. La Novella deve trovare 4 miliardi. Esatto. devi pagare, che ne so, 0,90 centesimi con la carta di credito. Aiutatemi a coprire questo debito. Una roba assurda. Ma di che parli oggi? Di sprechi dello Stato, ecco. Quindi sarà una puntata maratona. Dureremo fino alle 8 di stasera. Infatti. E poi dopo verrà sospesa per mancanza di tempo. Va bene, ringrazio Alessandro Rovecchi e Federico Novella. Grazie di avermi supportato, io e la febbre. Alla prossima, ciao. E il Milan è sotto! E il Milan è sotto! E il Milan è sotto! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, sono le 7:18 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, la 104esima settimana decisiva per la riforma elettorale, l'abolizione delle province è cominciata ufficialmente. E allora siamo qui, siamo pronti alla lettura dei giornali. Vi ricordo che oggi parleremo invece di regioni, c'è un libro uscito, un libro del collega del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, dal titolo Governatori, che racconta come le regioni siano il vero salasso, il vero spreco della pubblica amministrazione, proprio nel periodo in cui si va a votare. Avremo ospite Goffredo Buccini, faremo un viaggio un po' tra le varie regioni, avremo ospite anche la candidata presidente della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle, avremo ospite un questore deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. questo lunedì 27 aprile. I titoli intanto, il Sole 24 Ore apre sul turnover nella pubblica amministrazione per 41.000 dirigenti, sono gli effetti della riforma Madia che domani sbarca al Senato. Anche il Messaggero si concentra su questa riforma, part time prima della pensione, per gli statali pronto il provvedimento che consente di dimezzare il proprio orario. Sono novità che vengono presentate in anticipo dai giornali. Poi gli altri giornali si concentrano sulla tragedia in Nepal, dove abbiamo visto ci sono oltre 3.000 morti per il terremoto. Nepal, un paradiso distrutto, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, tra le macerie di Kathmandu, nessuno viene a salvarci. La Stampa, in Nepal crolli e valanghe, dispersi 4 speleologi italiani. Anche per il Secolo XIX, Nepal dispersi all'inferno. Il Giorno, italiani dispersi in Nepal. Come vedete le aperture sono su questo, solo il giornale dedica l'apertura alla politica, le spine del governo, il titolo di prima pagina è Renzi impantanato. Voglio partire però dalla lettura dell'articolo di Repubblica di Federico Fubini che si concentra sulla spending review, cioè il taglio della spesa pubblica. Racconta Fubini su Repubblica, pagina 14. C'è questa cifra, sanità, detrazioni e trasporti, mancano 4 miliardi. Si va a caccia di nuovi tagli per evitare l'aumento dell'IVA previsto per l'anno prossimo. Racconta Repubblica, sono solo due ma stanno lavorando sulla spending review a testa bassa. Sono Yoram Gutgeld, deputato, consigliere economico di Renzi, e Roberto Perotti, che certo non potranno essere accusati di non averci provato. Il loro lavoro è partito prima ancora che venisse loro affidato formalmente. Gutgel, 55 anni, nuovo commissario di governo alla revisione della spesa, è un ex manager di McKinsey, eletto alla Camera con il PD e consigliere di Palazzo Chigi. Perotti, 54 anni, dottorato al Massachusetts Institute of Technology, con alcuni degli economisti determinanti nella formazione di Draghi in quella stessa scuola, si divide tra la Bocconi e il suo ruolo di consigliere a Palazzo Chigi. Racconta Fubini che l'obiettivo è quello di trovare 10 miliardi di tagli in quest'anno, ma ballano ancora 4 miliardi allo stato attuale, che vanno trovati. E bisogna arrivare a caccia, andare a caccia di questi nuovi tagli per evitare altrimenti di non mantenere l'impegno a 10 miliardi e quindi far scattare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'IVA a partire dall'anno prossimo. Ci riusciranno i nostri eroi? Lo scopriremo nel corso dell'anno. A proposito di costi, vi voglio sottoporre l'articolo di Marco Ventura a pagina 5 del Messaggero che racconta gli sprechi dell'Unione Europea con i vari progetti legati ai migranti, in particolare Frontex. Così Frontex per i suoi euroburocrati spende 37 milioni come Tritone in un anno. L'Europa, racconta Marco Ventura, un dispendioso carrozzone burocratico. I numeri parlano da soli. Il personale delle agenzie europee decentrate, che 15 anni fa erano 12, oggi sono 32, è passato da 1486 unità nel 2000 a 6050 unità nel 2013, dunque personale quadruplicato. La macchina amministrativa dell'Unione Europea brucia tra un terzo e metà delle risorse in rapporto alle spese operative. Eppure l'Italia ha dovuto faticare per ottenere uno stanziamento aggiuntivo di 2,9 milioni miseri al mese destinati all'operazione Tritone. E poi snocciola altre cifre Marco Ventura di tutte le agenzie che si occupano della immigrazione. Sono tra queste anche l'EASO, che mette a bilancio anche 12.000 euro per contatti sociali tra lo staff. Ecco, voci che quantomeno sono un pochino bizzarre. L'ufficio di supporto all'asilo europeo è l'EASO, sede a La Valletta, Malta. A regime dovrebbe impiegare 51 persone rispetto alle 45 del 2013. Le spese per lo staff ammontano a 6.130.000, a cui vanno aggiunte oltre 2.500.000 euro di spese infrastrutturali. Affitti raddoppiati in un anno e 12.000 euro risultano appunto spesi per contatti sociali tra lo staff. Che fanno? Feste? Non lo so, che sono i contatti sociali? Happy hour? Aperitivi? Feste? Non lo so. Sono sempre quei bilanci un po' bizzarri degli organismi europei. Oh, voglio saltare su Repubblica, perché su Repubblica c'è un'intervista, a mio modo di vedere, imperdibile. La trovate a pagina 40 e 41, dunque non nelle prime pagine, ma per chi ha letto Open di Andre Agassi, il grande tennista, l'autobiografia di Agassi, beh, chi l'ha letta non potrà assolutamente saltare questa intervista, perché parla per la prima volta, alla vigilia dell'uscita del proprio libro, della propria vita, il papà di Agassi, che nel romanzo di André è una presenza fissa, costante. In pratica André Agassi dice: sono diventato un campione del tennis, ma ho odiato a morte mio padre, perché mi ha costretto con metodi brutali a diventare un campione. L'Orco e Agassi, esce domani il libro Indoor, la nostra storia, scritta da Mike Agassi con il giornalista Dominique Cobello. Poi più avanti vedremo perché l'ha scritta di fatto il giornalista, c'è un motivo molto molto specifico. Ebbene, Mike Agassi dice: io, è vero, tagliamo corto, sono stato un tiranno, intervistato da Emanuela Audisio, pagina 40-41, un'intervista molto intensa in cui racconta il rapporto tra un papà e un figlio campione. Tagliamo corto, sono stato un tiranno? Sì, è vero. Sono stato duro e severo? Sì. Ma lo ribadisco, meglio un padre, un genitore a fianco del figlio sportivo che un allenatore. Anzi, ai genitori di oggi dico: ribellatevi, non fatevi rubare i vostri ragazzi dai centri tecnici, dalle scuole specializzate, dai guru. Io, ma lei ha sacrificato 4 figli in nome dello sport? Direi 3, risponde il papà. Volevo che diventassero campioni. Rita, la prima, nata nel 60, era una ragazza fortissima, fisico e potenza, ma Pancho Gonzales, campione di tennis, me l'ha rubata, è diventato il suo allenatore, ci è andato a letto, l'ha sposata, nonostante i 20 anni di differenza. Poi c'è Philip, il secondo, era un buon giocatore, ma Rita l'ha sempre scoraggiato dicendo che era un perdente. Poi Tami, dotata anche lei, ma non aveva fisico, sempre stanca, ha preferito studiare. E poi André, l'ultimo, il più piccolo, non direi che l'ho sacrificato, visto che è diventato campione, ora un miliardario molto generoso e attivo socialmente. Aveva 7 anni quando gli predissi che sarebbe diventato il numero 1 al mondo di tennis. E poi racconta il suo rapporto. È vero, a volte usavo il martello in campo, davo martellate alla recinzione quando lui sbagliava, e sì, ho urlato anche contro i giudici. Quando una volta arrivò secondo in un torneo, ho preso il premio e l'ho buttato nel fiume. Ci interessava vincere, non la consolazione. Scusi, e questo dovrebbe essere un esempio di padre? Dietro il successo dei campioni c'è sempre un genitore, risponde Mike Agassi. Ok, sarà la loro ambizione, magari frustrata come la mia, che da pugile per l'Iran ho partecipato a 2 Olimpiadi senza vincerle, ma intravedere un destino per i figli invece di lasciarli in balia del niente può essere male? E poi racconta ancora del suo libro. Ha letto il libro di suo figlio Open? No, ma so che ha venduto bene, e allora leggerà questo, il suo libro Indoor. Me l'ha letto mia moglie. Scusi, ma lei perché non legge? E qui ecco la verità di André, il papà di André Agassi: sono analfabeta, è un segreto tenuto per tanti anni, nascosto anche alla mia famiglia, nemmeno mia moglie sapeva. A 23 anni, studente a Chicago, ho raccolto un uccellino e per rimetterlo sul nido con una scala son caduto, ho sbattuto la testa, 17 giorni di coma. Ho perso la capacità di mettere a fuoco, non avevo più visione laterale, non potevo più né leggere né scrivere. Mi industriai, pagavo i miei compagni perché mi ripetessero le lezioni, iniziai a registrare tutto, oppure iniziai a barare. Patenti, esami, moduli da compilare, si trova sempre un modo, con la mancia. E potesse rifare il padre, sarei ancora un mostro, risponde il papà di Agassi. Non mi pento. Se spingi troppo sbagli, ma se spingi troppo poco pure. Quando Andrea ha lasciato il tennis, ho pianto, perché finiva anche una parte di me. Beh, a leggere questa intervista che prelude al libro, certo, si capisce molto del rapporto complicato che Andre Agassi ha raccontato nel suo libro Open con il padre, che ora scrive il suo libro e dice: farei ancora il mostro. Va bene, siamo al momento dell'articolo Mani sul volante. Quello che ci fa più incazzare di questa giornata e oggi davvero è da Mani sul volante, perché racconta Beppe Severgnini in prima pagina del Corriere della Sera la retromarcia sull'omicidio stradale. Il dietrofront, dov'è finito l'ergastolo della patente? Niente ritiro a vita, neppure nei casi più gravi, solo la sospensione al massimo fino a 12 anni. Così nel testo di disegno di legge sul reato di omicidio stradale e nautico, che è stato depositato ieri in Commissione Giustizia a Palazzo Madama dal suo relatore, è scomparso l'ergastolo della patente. Cosa diciamo a tutti i parenti dei morti? La sanzione più severa, scrive Severgnini, sembra rientrata. Incuria e indifferenza, due parole che ovviamente la politica rifiuta. I motivi dell'inversione sarebbero altri. L'ergastolo della patente è improponibile perché un simile meccanismo sanzionatorio per la definitività dei suoi effetti non appare difendibile sul piano della legittimità costituzionale. Oh bella, scrive Severgnini, e perché? Secondo quale raffinato principio giuridico deve tornare a guidare chi ubriaco, fradicio o drogato falcia un bambino sulle strisce pedonali? Non è che sotto sotto qualcuno pensa una bevuta, poi una distrazione può capitare. Perché mai la punizione deve durare tutta la vita? E allora di fronte a questo pensiero pare che sia scomparso l'ergastolo della patente sul reato di omicidio stradale. Parole, parole di che, cazzo? Ma fatemi un piacere, dai, su! Alessandro Milan, il debosciato dell'informazione. Oggi possiamo dirlo ad alta voce, sono qui che combatto con la febbre, ma sono qui per celebrare la 104esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Non potevo mancare, cari ascoltatori, però abbiate pietà di me, ecco, abbiate pietà di me, che è dura, vi assicuro. Allora, in Nepal si contano i morti, si contano le distruzioni, sono 3200 le vittime finora accertate, ci sono tanti reportage, certo, non molto dettagliati. In questo momento il paese è anche francamente difficilmente raggiungibile. Franco Brevini sul Corriere della Sera racconta l'onda che ha cancellato tutto, una spaventosa eruzione, un'esplosione apocalittica. Si fa fatica a descrivere la rovina che si è abbattuta sul campo base dell'Everest, la montagna mito, l'emblema della potenza e della stabilità, il tetto del mondo violentemente squassato dall'onda d'urto del terremoto. Si è scrollato dai suoi ghiacci e delle rocce sospese alle sue pareti che sono precipitati in una nuvola rovinosa. Dopo il boato, gli alpinisti l'hanno vista crescere quella nuvola con la lentezza spaventosamente distruttiva delle valanghe. C'è anche una foto a pagina 5 che è riuscita a cogliere il momento di questa impressionante nuvola bianca di neve, ghiaccio, detriti che ha travolto il campo base e ha causato vittime anche lì. Ovviamente vittime poi in tutto il paese, un paese che, come ricordano i giornali, è anche costruito così alla belle meglio. Fosse successo in California, qualcuno ha fatto notare, non ci sarebbe stata una sola vittima. Ma certo, le case non sono costruite in Nepal come in California. Repubblica ospita anche un intervento del regista Bernardo Bertolucci, autore del famoso film Piccolo Buddha, girato nel 92 in Nepal tra Kathmandu, Bhaktapur, Patan. E Bernardo Bertolucci su Repubblica scrive: tra le immagini di macerie trasmesse in televisione ho cercato invano di riconoscere i posti della mia memoria, di intravedere il grande stupa che sorge non lontano da Bhaktapur. Ho avuto voglia di piangere. Kathmandu, Patan, Bhaktapur sono i luoghi simbolo della cultura del Nepal a cui sono profondamente legato. Ed è grande il dolore per le migliaia di vittime. Quei luoghi scoperti nel 73 quando partì per la prima volta in Oriente con mia moglie, Clar, era stata una sua idea, lei una viaggiatrice, io non lo ero, ed è stato un viaggio in cui ci siamo conosciuti e riconosciuti, un viaggio di iniziazione che buttò giù gli stereotipi che avevo nella testa su questi paesi, una scoperta totale. E ricorda poi questo viaggio Bertolucci nelle pagine 6 e 7 di Repubblica. Intanto c'è soprattutto ansia per quattro speleologi italiani di cui non si sa più nulla da ieri, come raccontano tutti i giornali. Leggo a pagina 3 del Corriere della Sera: Si tratta di Giuseppe Antonini, 53 anni, di Ancona, Gigliola Mancinelli, 50, anche lei di Ancona, Oscar Piazza, 55, del Trentino Alto Adige, e Giovanni Pizzorni, 52 anni, genovese, torrentista. Hanno parlato col satellitare, perché i cellulari in quella zona non prendono, la compagna di Antonini, Paola, prima della sisma e poi più nulla, e quindi c'è molta preoccupazione e ansia per questi quattro italiani. Mentre gli Sherpa, cioè coloro che aiutano le spedizioni occidentali, racconta Anna Lombardi su Repubblica, dicono è la montagna che si vendica, sono i segnali della montagna che non vuole più alpinisti, troppa gente, poco rispetto per le sue cime. Ecco cosa mormoravano gli Sherpa al campo base, pensano insomma che sia un segno. Vabbè, ci sta anche questo, credenze popolari per questo sisma. Comunque ancora tanti articoli che trovate di resoconto e anche delle foto molto emblematiche di quello che sta succedendo come tragedia in Nepal. Mentre veniamo alle questioni italiane. Le questioni italiane, la cosa più importante è la questione della legge elettorale. È innegabile, ormai ci siamo, ormai è la settimana, lo dico, decisiva, perché da domani si va al voto e si va al voto con le tensioni soprattutto all'interno del Partito Democratico. Tocca all'Italicum, Renzi dice noi non ci fermiamo, così Alessandro Trocino a pagina 12 del Corriere della Sera. Il clima è incandescente, c'è chi denuncia, come Arturo Scotto di Sel, telefonate e pressioni indebite da ambienti governativi sui singoli esponenti di gruppi parlamentari per il voto di martedì. Questo, per la verità, smentito da alcuni esponenti del Partito Democratico vicini a Renzi, è anche confermato però dalla stampa. Leggete Fabio Martini in prima pagina: è già partita la caccia all'ultimo voto. Fabio Martini, uno ad uno, deputati incerti e deputati suggestionabili, deputati di maggioranza e deputati dell'opposizione. Sono decine e decine, più di 100, gli onorevoli raggiunti negli ultimi giorni da altrettante telefonate, oggetto del desiderio strappare un sì alla legge elettorale. In queste ore che precedono l'avvio delle votazioni alla Camera, il Presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di non lasciare nulla di intentato pur di rastrellare voti in vista della battaglia finale. Una caccia al sì assolutamente fisiologica in casi come questi, con innumerevoli precedenti. Meno rituale ma non inedito il tentativo di coinvolgere deputati delle opposizioni, anche l'impegno personale del Premier, che non si sta risparmiando nel contattare personalmente i personaggi chiave della vicenda parlamentare. Dunque, scrive la stampa, Renzi e i renziani stanno chiamando tutti i deputati. D'altronde Renzi dice ai suoi: sono convinto di farcela, i numeri sono dalla nostra parte, ma in alcuni ristretti casi confida, questo è il passaggio più difficile della legislatura. D'altronde Renzi l'ha detto andando da Lilli Gruber venerdì: se mi vogliono mandare a casa, votino pure contro la legge elettorale. Se la legge elettorale non passa, si va a casa perché salgo al Quirinale. Renzi e ribelli PD: non sono legato alla fiducia, se lo bocciate mi dimetto. Questo è anche il titolo di Repubblica, con l'articolo di Giovanna Casadio e Tommaso Ciriaco. Si racconta di un centinaio di deputati del PD che sono nel dilemma tra una scelta di coscienza e la disciplina di partito. Lorenzo Guerini, vice segretario del PD, intervistato da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, dice: il confronto è a viso aperto, senza l'alibi del voto segreto. Non faccio previsioni sui numeri di votazioni. Il PD, dice Guerini, ha proposto questa legge elettorale, ha portato la scelta negli organismi dirigenti, ci siamo confrontati, abbiamo modificato il testo, adesso ci siamo e mi rivolgo a tutti. Utilizzeremo i giorni e le ore a disposizione per ampliare la base di consenso. Certo, però, si fa capire che la situazione è talmente difficile, lo si capisce da una domanda che Monica Guerzoni fa in chiusura dell'intervista a Lorenzo Guerini, ed è questa: conferma che Verdini entrerà nel PD? Io l'ho dovuta rileggere 50 volte questa domanda. Ma come Verdini, cioè il più fedele di Berlusconi, conferma che Verdini entrerà nel PD? E Guerini risponde: assolutamente no. ogni tanto si rincorrono ipotesi fantasiose che vengono puntualmente smentite dalla realtà. Ma questo per dire che si profila anche il rischio di qualche inciuccio, qualcuno lo potrebbe chiamare, oppure il fatto che qualcuno o molti all'interno del centrodestra possano votare questa legge elettorale, l'Italicum. Staremo a vedere, da domani approda in aula e quindi si voterà e vedremo tutti i meccanismi. Oh, voglio andare al Sole 24 Ore. Premessa: Mauro Meazza non è che, siccome l'Inter ha superato il Milan, ma questa settimana ce l'aveva già detto, non sarà con noi e quindi... Però mi ha lasciato ieri la Gazzetta di ieri, con la vittoria dell'Inter e la sconfitta del Milan, così, memo. Tanti abbracci, me l'ha lasciata lì sulla scrivania. Bravo Mauro Meazza, complimenti, continua così. Vabbè, comunque il Sole 24 Ore oggi ha come apertura la riforma Madia sulla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione prepara il turnover dei dirigenti. Domani la riforma Madia approda al Senato e racconta i dettagli Gianni Trovati a pagina 3. Una gara pubblica ogni 3 anni oppure ogni 6 per i più fortunati per ottenere gli incarichi, valutazioni basate su requisiti, parametri standard e obiettivi e mobilità più semplice tra le diverse amministrazioni e tra la pubblica amministrazione e il mondo privato. Questi sono i punti salienti e così suona la descrizione della vita futura del dirigente pubblico che è prospettata dalla delega sulla riforma della pubblica amministrazione che dopo una navigazione parlamentare non proprio fulminea arriva domani al primo voto nell'aula del Senato. Le parole d'ordine evocano mobilità e merito, come accade per ogni riforma della pubblica amministrazione che si rispetti. Sta di fatto, scrive Trovati, però, che i tentativi portati avanti finora, compresi quelli aggressivi previsti dalla riforma Brunetta, non sono andati a segno. Comunque, tutti i dettagli, ruolo unico, questa è la chiave per i 41.500 manager nel disegno di legge che da domani cerca il primo sì al Senato. Tra l'altro di questo tema parla anche il Messaggero, lo fa a pagina 2 dopo aver messo il titolo di prima pagina part time prima della pensione. Torna in campo l'ipotesi di una staffetta generazionale nella pubblica amministrazione, così racconta Andrea Bassi a pagina 2 del Messaggero. È lo strumento che permette lo svecchiamento dei ranghi del pubblico impiego che potrebbe essere inserito attraverso un emendamento in aula in Senato alla riforma della pubblica amministrazione. Il progetto che sta maturando potrebbe essere decisamente diverso da quello inizialmente prospettato dal ministro Madia. La prima volta che il ministro aveva parlato di staffetta generazionale, cioè la possibilità di anticipare l'uscita di statali vicino alla pensione per permettere l'ingresso di giovani, era stato nelle audizioni in Parlamento. Il piano delineato lo scorso anno prevedeva la possibilità di mandare in pensione con 1 o 2 anni di anticipo i lavoratori del pubblico impiego ormai prossimi all'età della pensione. Questo progetto si era però arenato su resistenze della Ragioneria Generale dello Stato. Ora si torna alla carica, secondo il Messaggero c'è forse la possibilità di un nuovo reinserimento questa staffetta generazionale. Staremo a vedere ovviamente. Oh, manca una settimana scarsa all'Expo! E oggi il Corriere della Sera con Andrea Galli a pagina 9 racconta in una pagina qualcosa di un po' inquietante, con tanto di reportage fotografico, quei lavoratori dal varco abusivo. Si racconta l'ingresso senza controlli di sicurezza a 200 metri da uno di quelli riservati ai dipendenti, da dove entrano gli operai immortalati dalle foto. Scrive Andrea Galli: gli abusivi non si arrampicano sul muro di cinta, non si infilano nei buchi, non si calano dall'alto, semplicemente camminano in massima sicurezza. A 200 metri di distanza da uno degli ingressi principali dell'Expo per i dipendenti dei cantieri c'è un cancello. All'inizio un filo di ferro lo tiene ancorato alla rete metallica, poi col passare dei minuti e degli ingressi il filo di ferro cade, viene lasciato a terra e si apre un varco. E da lì passano tutti gli operai, per carità. Racconta Galli, finora dal cancello sarebbero transitati solo innocui muratori, elettricisti, operai italiani e stranieri. Bisogna capire se davvero è andata così, chi e come potrà dimostrare il contrario, chi sono gli abusivi e se questi abusivi potrebbero essere addirittura lavoratori in nero. Sta di fatto che non è molto simpatico vedere che nella foto ripresa dal Corriere della Sera entrano da un varco non ufficiale, da un varco abusivo. C'è anche per esempio la testimonianza di un operaio che dice: quando chiamano io arrivo, pagano subito a fine giornata. Ora, che tipo di lavoratori sono? Vi lascio con questo dubbio al traffico. A Milan, io voglio sentire il traffico! Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Alessandro Milan, il Bonobox dell'informazione. One love. One love. Che bello, che bravo Bono. Allora, si dibatte molto anche non solo di Italicum ma anche della scuola, perché la Giannini, il ministro Giannini, è andata alla festa dell'Unità ma non è riuscita a portare avanti il suo intervento e si è molto adombrata su Repubblica, ha definito squadristi gli attacchi nei suoi confronti. Mi hanno insultata, non mi hanno permesso di parlare. Come li vuole chiamare questi squadristi? Insegno linguistica da tempo e non trovo altro termine. Sono stata aggredita da 50 squadristi, viva Dio, solo verbalmente. Eccola qui la bufera sulla Giannini: i professori si rispettano e non li chiami squadristi. Repubblica torna su questa vicenda con due pagine, viene intervistata anche Corradina Sciglia. Chi è Corradina Sciglia? È una di coloro che ha contestato il ministro Giannini. Viene intervistata e dice: le ho urlato vergogna e non mi pento. Sono antidemocratici quelli come lei che fingono di non vedere il dissenso. Noi squadristi, ma per favore! Il ministro ci offende profondamente, le sue parole ci indignano. È stato tutto molto enfatizzato. È il ministro che se n'è andato, la sala era quasi deserta, c'eravamo solo noi e gli studenti, io ero andata per partecipare al flash mob degli insegnanti, dopo ho raggiunto il dibattito e quando sono arrivato ho visto gli universitari alzare i cartelli, mi sono arrabbiata anch'io, ne avevo molti motivi, c'è un momento in cui non riesci più a stare zitto. Sì, ma cosa la fa arrabbiare di questa riforma della scuola? Risponde questa insegnante: la chiamata diretta degli insegnanti da parte dei presidi, gli albi regionali che sono una buffonata, il gioco delle tre carte sulle risorse alla scuola messe su una voce e tolte da un'altra. Conosco un preside che in contrasto col comune ha chiuso una scuola primaria. Cosa potrà accadere dando pieni poteri ai dirigenti? Mi ribolle il sangue sapere che sarò chiamata su basi discrezionali e peggio, in balia del rischio di una politica clientelare. Non ci sono garanzie. Il 5 maggio credo ci sarà lo sciopero generale. Tra l'altro, su questo la stampa si è concentrata andando a fare un viaggio con Flavia Amabile a Piedimonte Matese in provincia di Caserta, dove secondo il rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza, qualità e accessibilità negli edifici scolastici c'è in assoluto la scuola peggiore d'Italia. E dovreste vedere le foto che accompagnano quest'articolo: soffitti bucati con il trapano per evitare che il tetto crolli. È la storia dell'istituto professionale di Piedimonte Matese, dove a un certo punto hanno preso il trapano e hanno bucato il soffitto. Questo perché? Perché c'erano continue infiltrazioni di acqua e tutti sanno, raccontano in questa scuola, che l'acqua gonfia le pareti, ossida l'acciaio del cemento armato, indebolisce la struttura finché l'edificio crolla. Così racconta Giovanni Della Paolera, insegnante addetto alla prevenzione e protezione dell'istituto. Il cancello chiuso con un lucchetto arrugginito, l'impianto di riscaldamento tutto scrostato, le guaine del tetto accatastate sul prato, davvero un disastro di questa scuola che viene raccontata, pagina 7 della stampa, da Flavia Amabile. Questa è anche la scuola italiana. Beh, certo, questa è la scuola peggiore eletta da un rapporto di Cittadinanza Attiva. Per quel che riguarda la politica, tra l'altro su questo il giornale sulla scuola dice che professori e sindacati in rivolta, la riforma rischia di fare flop, è uno dei motivi per cui Renzi è impantanato, questo almeno è l'articolo del giornale, non solo per la legge elettorale ma anche per questo. In tutto questo, se invece guardiamo all'estero, c'è un Varoufakis scatenato, il ministro dell'economia di Atene, che è stato molto criticato dai colleghi dell'Eurogruppo l'hanno attaccato come un cialtrone, un incompetente, un incapace, un buffone, ne hanno dette veramente di tutti i colori. Sapete come reagisce Varoufakis? Reagisce così: sono uniti nel loro odio contro di me come nei confronti del presidente francese Roosevelt. Che quell'odio sia il benvenuto, mi sento come Roosevelt in questi giorni. Così Varoufakis dunque non arretra di un passo, anche il giorno dedica un titolo a questa vicenda: Varoufakis si sente Roosevelt, benvenuto l'odio contro di me. E invece che dire della giornata sportiva di ieri? Beh, la giornata sportiva di ieri in qualche modo è stata offuscata, anche se volete la vittoria storica del Torino nel derby dopo 20 anni sulla Juventus, da delle violenze indicibili. Ci siamo ancora con le violenze, sempre e solo il calcio italiano, con le solite chiacchiere, con le frasi del ministro dell'interno Alfano che dice ora nessuna clemenza per i teppisti, la sentiamo da 15 anni, una frase del genere. Sta di fatto che ancora una volta gli stadi diventano un porto franco per le violenze di, per carità, pochi esagitati, ma incontrollati. Un sasso che ha mandato in frantumi un finestrino del pullman della Juventus, poi i petardi in curva, insomma a Torino 11 feriti, giustamente la stampa dedica pagina 12 e 13 a questo tema. Non c'è niente di sportivo, non c'è il resoconto della vittoria del Torino che è nelle pagine di sport, ma si parla con Lodovico Poletto di bombe carta sugli spalti, feriti, arresti, voci incontrollabili che si accavallano e rischiano di far degenerare la situazione e scatenare altra violenza, come quando si diffonde la voce c'è una persona in fin di vita, no? Una bambina piccola ha perso un dito. Nel giorno in cui il Toro dopo 20 anni si riprende il derby, l'Olimpico diventa un teatro di violenze. Se non fosse che la risposta della polizia è stata decisa da lasciare di sasso anche gli ultra più duri, poteva andare di peggio, perché cosa ha fatto la polizia? Ha individuato subito i lanciatori di sassi ed è andata dentro lo stadio durante la partita a prelevare, con tanto di immagini che li immortalavano, a prelevare le persone accusate di questo. Pensate che io ho letto questa frase, ho dovuto leggere 50 volte. Una pietra manda in frantumi un vetro del pullman della Juventus. Tra gli autori, il primo denunciato è un padre che andava alla partita con il bambino in braccio. Un padre che andava alla partita con un bambino in braccio. Si è fermato, ha detto: aspetta caro figliuolo che devo tirare un sasso contro il pullman della Juve. Cosa gli devi fare a uno così? Cosa gli puoi fare a uno così? È perso. Non neanche la galera serve a uno così. Niente serve a uno così. Vabbè, siamo al momento della carta costa. Siamo anche in Periscope, nonostante la febbre. Non riprendere tanto da vicino, caro Lorenzo Nespoli. E siamo a un'altra pagina sul Giorno, sul Royal Baby, il secondo Royal Baby. Se la prende comoda, non esce il Royal Baby, secondo Royal Baby. Kate si prepara al parto indotto. Ma chi se ne frega? BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che te bozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo qui nel giorno in cui si apre quella che sembra davvero una delle settimane, lo dico, decisive per la riforma elettorale. Sapete che qui le contiamo le settimane fintamente decisive di questa legislatura. Siamo alla settimana numero 104 per l'abolizione delle province e la riforma elettorale. Ma stavolta ci saremo, tanto che Renzi da Lilli Gruber a 8:30 venerdì scorso ha posto la questione così. io posso pensare di barattare il fatto di restare attaccato alla poltrona e di non fare le cose. Di gente che non ha fatto le cose in Italia, che non ha avuto coraggio, ce n'è anche troppo. Io vado avanti. I signori del Parlamento hanno l'occasione di mandarmi a casa se vogliono. Se vogliono mandarci a casa, ci mandino a casa. Quindi... questo sembra prospettarsi questa settimana. Ma noi parliamo di un'altra votazione, se volete. Tanto questo lo vedremo in settimana. Tra un mese, poco più, si va a votare per rinnovare alcuni consigli regionali, quindi alcune regioni. Fonte Istat, 6 italiani su 10 vedono le regioni come fonti di sprechi, di vero dissesto della finanza pubblica, della spesa pubblica italiana. Altro che le province, e lo dico io appunto che ne conto le settimane decisive per l'abolizione delle province. Le regioni. Perché le regioni sono diventate un salasso economico? Se lo chiede un collega, Goffredo Buccini, che ha scritto del Corriere della Sera, inviato del Corriere della Sera, che ha scritto il libro Governatori, così le regioni hanno devastato l'Italia, edito da Marsilio, e lo voglio salutare. Goffredo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te, Alessandro. Intanto la cosa che mi ha colpito di più di questo libro è che in alcuni casi i più grandi detrattori delle regioni sono coloro che le hanno governate, che questo può sembrare ridicolo, ma perché tu intervisti in pratica tutti i governatori o ex governatori, sì. E alcuni lasciano delle dichiarazioni abbastanza sconvolgenti, no? Ma sai, il senso del libro è esattamente questo, che non è sulla cattiveria delle persone, ma è sul disastro di questo ruolo e sul disastro delle regioni. Cioè non è che i 10 governatori che parlano siano di per sé delle persone cattive, si trovano a governare una macchina ingovernabile pensata in modo sbagliato dalla riforma del 2001, cioè quella che ha letteralmente distrutto lo Stato unitario. I risultati li stiamo vedendo ora. Tra l'altro io ricordo il numero, se volete intervenire, 800 24 00 24. Galan, per esempio, Galan, che ha governato il Veneto, poi è stato ministro, poi sapeva, ha avuto vicissitudini per la vicenda del Mose, ora si trova agli arresti domiciliari. Tu sei riuscito a contattarlo e anche lui dice le regioni andrebbero abolite, o le regioni o lo Stato. Ma come? Questa è, come dire, è oggetto di discussione. Tu hai giustamente citato l'attesa della riforma delle province all'inizio della trasmissione, e ancora, come dire, l'eliminazione delle province è su una strada estremamente faticosa, complicata, figurati le regioni. Quindi uno dice stiamo, come dire, prospettandoci un obiettivo impossibile. No, non lo è. È un discorso su cui bisogna ragionare insieme. Molti governatori, non soltanto quelli che ne sono usciti peggio, ma ti ricordo governatori tuttora in carica, Stefano Caldoro, che peraltro è anche candidato, e Nicola Zingaretti, che non lo è ma è tuttora presidente della Regione Lazio, discutono apertamente, per esempio, di smantellare delle competenze delle regioni per creare delle aree di servizio ampie. Penso alla sanità, che come vedi oggi stesso è al centro dei giornali sulla Spending Review. Ma infatti, quindi, tra l'altro ci si chiede come mai, da dove sia degenerata questa situazione per cui le regioni, noi ovviamente ci concentriamo sulle inchieste, vediamo i consiglieri regionali, quelli magari dello scontrino per andare al bagno, quelli delle spese, così, quelle sono le notizie che forse fanno anche più colore, ma non sono le vere spese, i veri fondi neri delle spese. Ma sai, le due cose purtroppo vanno insieme, nel senso che la storia degli scontrini, che viene diciamo chiamata comunemente rimborsopoli, con sì, un orrido neologismo, ti dà il segno della qualità, devo dire una cosa brutta e impopolare, della qualità della nostra classe politica, ma anche della qualità della cosiddetta società civile quando si fa classe politica. Cioè quando tu diffondi purtroppo la gestione della cosa pubblica, la risposta che ancora oggi ti danno tanti italiani incaricati di questa cosa alta e nobile è terrificante, cioè è l'idea che i soldi pubblici diventino soldi loro. Cioè, parlando con queste persone, io ho avuto la sensazione che loro non percepissero neanche che i rimborsi fossero soldi pubblici, sì, ma che fossero semplicemente entrati in un circuito privatistico. Cioè, quindi è veramente le due cose stanno insieme, cioè la cattiva qualità della nostra classe politica coincide con la cattiva qualità della società civile italiana e che produce, ahimè, queste strutture, cioè, certo. I centri di potere in Italia vanno diminuiti, non vanno aumentati. Oh, infatti adesso tutti raccontano bisogna accorpare le regioni, no, bisogna ridurle. C'è anche un progetto di legge per unire alcune regioni. Ci sono alcune regioni, lo ricordiamo sempre, come il Molise, che è talmente piccola che per molti non ha molto senso di esistere. Guai quando l'abbiamo affrontato col presidente della regione Molise, ovviamente dice immagino, che, certo, peraltro è la regione della mia famiglia, quindi mi sento coinvolto, però posso capire benissimo. Insomma, in ogni caso, non ha molto senso. Goffredo, siamo con Goffredo Buccini. Volevo presentarti Valeria Ciarambino, che è candidata a presidente della regione Campania per il Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo buongiorno, Ciarambino. Buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Quindi, se uno vuole vedere uno di quei volti nuovi della politica, no? Perché fino adesso lei ha fatto mai politica a qualche livello? No, nell'accezione classica no, anche se mi occupo del mio territorio da anni, sono un attivista, per cui sì, della politica con la P maiuscola, intesa come cittadinanza consapevole. Allora, mi dica nel caso dovesse mai il Movimento 5 Stelle conquistare la regione Campania, cioè che cosa volete fare, per esempio, contro gli sprechi delle regioni? Guardi, lei tocca un punto cruciale del nostro programma. Noi abbiamo presentato in conferenza stampa ai primi di marzo un programma di massima, perché quello ufficiale lo presenteremo insomma nei prossimi giorni, dove abbiamo fatto un conto della serva, senza veramente neppure entrare nelle pieghe del bilancio regionale, ma semplicemente individuando quelli che sono gli sprechi che qualunque cittadino, anche attraverso un viaggio in internet, può individuare. Cominciamo a tagliare quelli. Io leggevo appunto della eventualità di eliminare le regioni o meno, ma cominciamo a far funzionare quello che abbiamo. È una cosa possibile, non è che le cose devono andare. Qual è lo spreco maggiore? Lo spreco maggiore, guardi, che avete notato? Allora, guardi, banalmente noi ci dimezziamo gli stipendi, lo facciamo già in tutte le istituzioni dove siamo, abbiamo dichiarato pubblicamente che lo faremo in Regione Campania. Se fossimo noi a governare la regione, dal dimezzamento degli stipendi di consiglio e giunta si recuperano 4 milioni di euro all'anno, 20 milioni in 5 anni. Ancora, la Regione Campania spende milioni di euro all'anno in consulenze d'oro e sappiamo benissimo che dentro la Regione ci sono dirigenti che sono molto ben pagati, ricevono premi di produttività senza che nessuno verifichi neanche il raggiungimento degli obiettivi. Aboliamo il 70% delle consulenze esterne, teniamo solo quelle strettamente necessarie, facciamo lavorare le intelligenze all'interno della Regione, facciamo convenzioni con le università per far lavorare i nostri giovani. Ne abbiamo tanti straordinari, sì, nelle università. Recuperiamo da questo provvedimento, che le ho detto, 6 milioni di euro all'anno. Ci sono 740 auto blu in regione, nessuno dei nostri parlamentari ha mai messo piede in un'auto blu, la stessa cosa sarà in regione Campania. Un'altra scelleratezza che le dico a proposito di sprechi: la regione Campania spende tra giunta e consiglio regionale 20 milioni di euro all'anno in affitti. A parte veramente la cosa che mi lascia fortemente perplessa, che nessuno abbia mai pensato, piuttosto che continuare a sprecare questi soldi ogni anno ad acquistare quegli immobili dove siamo, ma poi a fronte di questo la regione possiede immobili inutilizzati per 20 milioni di euro. E allora c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va anche su questo. Torna, no, ma queste sono alcune delle voci sulle quali questi sono provvedimenti che si possono fare in un giorno. Si può risparmiare. Noi puntiamo all'abolizione dei vitalizi per quanto riguarda, diciamo, i consiglieri regionali. In Campania i vitalizi valgono 4-5 virgola volte quanto valgono in Lombardia. Sì, quello sappiamo che purtroppo si può fare eventualmente solo per il futuro, ma non è che si può fare per il passato. Parliamo di 31 milioni di euro all'anno in Campania, quindi che si possono fare da un giorno all'altro. Buccini, però vorrei capire, il vero fondo nero delle spese delle regioni, l'abbiamo detto varie volte, è la sanità. È soprattutto sulla sanità che le regioni... Io ti descrivo l'ASL 1 di Napoli come veniva fuori, come esce fuori nel racconto del libro, cioè con un posto con 13 ospedali, 1,5 milioni di utenti, 14,000 dipendenti, circa l'80% delle spese dell'intera sanità campana. Questo è un posto dove a un certo punto hanno mandato, perché era scappato il commissario della sanità fatto dalla giunta attuale, ha mandato un generale dei carabinieri. Sì. Cioè, quindi stiamo parlando, io anche sentivo e mi sembrano ottime idee queste della candidata dei 5 Stelle, però parlava di dimensioni di qualche milione di euro, qui stiamo parlando, voglio dire, di bilanci di miliardi, cioè qui va spostata la dimensione delle cose, perché vanno spostati i centri di decisione. Cioè, mi sembra che stiamo parlando proprio di dimensioni. Sì. Di dimensione, sì, dice di risparmio. Il nodo è quello della sanità, che peraltro ha fatto saltare il diritto costituzionale alla salute garantito per tutti, perché oggi è molto diverso essere cittadini di Reggio Calabria e essere cittadini di Bolzano. Ma noi abbiamo ospitato anche in passato sia il colonnello, il generale Scoppa, credo si chiamasse, bravissimo, sia il colonnello Bortoletti, che sono stati mandati a gestire le due ASL. Già il fatto che due membri dell'esercito, diciamo, un generale in pensione e un colonnello dei carabinieri, debbano essere spediti a gestire una ASL, questo fa capire che qualcosa dice lunga, non c'è, la dice lunga anche in termini di pressioni, intimidazioni, cioè noi stiamo parlando di macchine amministrative mostruose che soprattutto nel sud sono infiltrate gravemente dalla malavita organizzata. Allora, tra un minuto e mezzo dopo la pubblicità siamo con Goffredo Buccini, che ha scritto questo libro Governatori, edito da Marsiglio. Siamo con Valeria Ciarambino, che è candidata a Presidente della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle. Sentiremo anche la voce di Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, che ha tuonato contro le regioni a statuto speciale, dicendo un qualcosa di anacronistico. Ovviamente anche qui si sono sollevati i polveroni delle regioni a statuto speciale. State con noi. Allora, le 8:32 minuti, stiamo parlando di regioni. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. C'è Andrea che ci chiama da Prato. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Mi fa piacere ci sia anche il nostro presidente della regione. No, beh, quale... cioè, l'abbiamo registrato tra poco. Vabbè. Direi che è uno dei principali artefici della distruzione del sistema sanitario di questa regione. Certo, ormai la sanità in Toscana è tutta demagogia, tutto è perfetto, i medici non hanno più voce in capitolo, quando qualcosa non va è colpa dei medici, i medici ospedalieri sono tutti a fare medicina difensiva perché sanno che se ci sarà qualcosa che non va in medicina. Vabbè, questo che c'entra con le spese della regione? C'entra perché è stato creato un apparato burocratico mostruoso dove si fa finta che tutto funziona. Abbiamo delle macchine sanitarie che girano a 100.000 per produrre un topolino. È stato aumentato enormemente l'organico delle ASD, ma poi si va nei reparti. Il personale. Vabbè, lei carente. Dice quindi, Andrea, è un dissesto dal punto di vista. È un dissesto dal punto di vista sanitario. È un grosso vantaggio perché è una fabbrica di voti incredibili, perché i collocamenti che sono stati fatti con questo aumento del personale, chiamiamolo così, parasanitario o finto sanitario. E poi creano una macchina elettorale, cioè, creano esatto, poi le ASL creano con gestioni clientelari, questa è la sua visione. E su questo, Valeria Ciarambino, so che voi del Movimento 5 Stelle dite no, noi non faremo eleggere nel caso i dirigenti scelti dalla politica, ma chi li deve scegliere i dirigenti? Io ci tengo molto ad intervenire su questo tema della sanità e a ribadire che quello che ho fatto prima era semplicemente l'elenco degli spiccioli che si possono risparmiare da oggi al domani. La sanità in Campania vale il 70% del bilancio regionale. Non so se sapete che la sanità campana è commissariata da 5 anni perché quando è arrivato Caldoro si è ritrovato con un buco di 850 milioni di euro, se non ricordo male, causa della cattiva gestione precedente. Questo conto salatissimo è stato fatto pagare ai cittadini con aumento del ticket, aumento delle addizionali regionali IRAP e IRPEF, per cui la Campania ha il primato italiano, taglio dei posti letto, taglio delle strutture ospedaliere, e oggi Caldoro ci viene a dire che ha risanato la sanità campana. Come si fa a risparmiare soldi nella sanità? Noi proponiamo l'istituzione di una commissione permanente di controllo sulla spesa per i tagli agli sprechi. In Campania una siringa costa 4 euro a fronte dei 2 euro di Milano, la stessa siringa. C'è qualcosa che non funziona. Sì. In questa commissione permanente ci sono cittadini, anche delle associazioni delle vittime di mala sanità ed esperti contabili. Questo è un provvedimento. Un'altra cosa, veniva citata prima l'ASL Napoli 1 qui in Campania. Sì. Ecco, nell'ASL Napoli 1 è stato accertato che il sistema contabile non funzionava, sono stati effettuati doppi pagamenti per prestazioni ottenute, diciamo, a dei fornitori esterni, ok? Quindi noi abbiamo, i cittadini hanno dovuto pagare con i soldi pubblici due volte le stesse prestazioni perché i vertici della sanità. Quando era arrivato il generale Scoppa ci aveva raccontato addirittura che non esisteva una contabilità su carta. Esattamente, non esisteva. Allora le dico questa cosa, lo sa Caldoro che cosa ha fatto? ha premiato quello che era il direttore di quell'ASL, responsabile di quel disastro, e tra l'altro assessore della Giunta Bassolino, responsabile del disastro della sanità campana, si chiama Angelo Montemarano, lo ha messo a capo dell'ASAM, che è l'Agenzia Regionale della Sanità. Questo è il modo in cui questa gente governa la regione e governa la sanità campana. Come si fa? Le dico subito. Un esempio, noi abbiamo in Campania la maglia nera per la migrazione sanitaria, cioè siccome in Campania è saltato completamente il diritto alla salute, i cittadini sono costretti a recarsi fuori regione per farsi una TAC e una risonanza magnetica in tempi utili, cioè per non morire prima di vedersi diagnosticata una patologia. Questo è costato alla regione 270 milioni di euro solo nel 2013. Purtroppo questo, se il livello della sanità è questo, certo, lei propone una commissione, in teoria, Buccini, ci sarebbero i famosi costi standard, no? Di cui si è parlato tanto negli anni, ma poi non vengono mai applicati, no? Per il costo famoso delle siringhe. Sì, ma le commissioni sono, ahimè, storicamente in Italia un sistema perfetto per non risolvere assolutamente nulla. La verità, temo io, è che, ripeto, la sanità non sia tema possibile da attribuire alle regioni. La sanità va tolta alle regioni e va riportata nella competenza dello Stato, possibilmente creando anche delle aree di servizio ampie tra regioni, tra territori, diciamo, ma sicuramente va sottratta alla competenza delle regioni, perché le regioni ne hanno fatto strame, hanno usato la sanità come un autobus elettorale, diciamo, non come il taxi di Mattei, ma come un grande autobus. Come ci diceva l'ascoltatore. Gente sopra, diciamo. Allora, sentiamo prima di sentire Enrico Rossi sulla questione delle regioni statuto speciale, Fausto da Pavia. Buongiorno Fausto. Buongiorno a voi e buona giornata. Dica. Mi permetto di intervenire forte dalla mia esperienza. Io sono 40 anni che lavoro oramai e ho fatto 20 anni nella pubblica amministrazione, sì. Ho avuto moltissimi rapporti con la regione, in particolare la regione Lombardia, regione gioiello si dice, e poi invece quando è stato il momento e mi si è data la possibilità ho lasciato il posto sicuro per essere un libero professionista e fare la libera professione. Ecco, viviamo oramai da parecchio tempo questo dualismo politica-amministrazione-amministrazione politica. Il cittadino onestamente sa che sente, ma poi vede che non cambia mai, nulla cambia. Vabbè, ma ho capito, ma la sua esperienza con la regione? Sì, la regione oggi, che doveva essere con la riforma del 70-75 il gioiello, quello che doveva portare, il signore che mi ha preceduto e che parlava dei medici eccetera eccetera, sì, ha centrato pienamente il tutto, ma ha dimenticato una cosa, che all'interno della regione gli amministratori ruotano, i funzionari rimangono, ed io ho imparato sulla mia pelle che bisognerebbe con una legge ad un articolo solo stabilire che quando i dirigenti arrivano a certi livelli non ci stanno più di 20 anni, di modo che sia loro obbligato essere 20 anni nella pubblica amministrazione ed avere 20 anni sotto la libera, insomma, la rotazione dei dirigenti. Va bene, è chiarissimo Fausto. Andrea Torino da Federico, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io premetterei che sono un piccolo imprenditore, quindi non ho tempo e non ho accesso a informazioni per dare dei giudizi, dei consigli che siano sicuramente dica la sua. Però istintivamente dico, ho un'azienda che ha avuto anche dei momenti di crisi e ho ristrutturato con successo una piccola azienda. Bisogna ristrutturare, bisogna tagliare le spese, bisogna mandare a casa un po' di gente. In Italia abbiamo 3 milioni e mezzo di dipendenti quasi, o 3 milioni anche di più con i parastatali. Bisogna mandarli a casa e che così creino possibilità, si sveglino anche un po', facciano un po' di... che trovino degli sbocchi magari, sì, anche per valorizzare. Per lei Federico è un problema questo, troppi dipendenti pubblici. Allora è chiarissimo. Allora vogliamo sentire Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, che ha lanciato questo sasso. Per la verità ogni tanto ritorna la questione dell'abolire le regioni a statuto speciale, perché lo statuto speciale è considerato anacronistico. Rossi. Io non penso che siano più fondati le ragioni che hanno dato luogo all'individuazione della regione a statuto speciale, ma il regime di autonomia che sta scritto anche nei trattati internazionali, mi riferisco in particolare al Trentino, non specifica le modalità di questa autonomia. E se questa autonomia ha prodotto, fermo restando la capacità del Trentino di saper spendere, nessuno mette in discussione questo, ma guardi, anche la Toscana spende abbastanza bene. Beh, se ci sono sperequazioni eccessive, queste sperequazioni vanno pure corrette. Aggiungo anche che un'altra riforma importante da fare dovrebbe essere quella già da tanti decenni discussa, di un accorpamento delle regioni e di una riduzione del numero delle regioni. Se le regioni stanno arroccate a difendersi così come sono, saranno esse stesse poi travolte dal fatto che 20 regioni è evidente che sono troppe e che le regioni piccole possono e devono accorparsi a regioni più ampie per svolgere meglio la loro funzione. Allora, Buccini, questo dice Rossi, in realtà poi dopo, quando si vuole andare a toccare le questioni, insomma, i principi sono sanciti e poi non si cambia mai niente l'Italia di queste cose. Mi sembra che ci sia, come dire, una ventata di voglia di cambiamento molto trasversale, come vedi, anche dai presidenti delle regioni, eccetera. Dopodiché metterci mano seriamente, però... Per esempio, parlava Rossi delle regioni autonome e ha generosamente omesso la vicenda siciliana, dove ti ricordo ci sono 22.000 dipendenti della regione, e la Corte dei Conti ha spiegato benissimo che quelle assunzioni sono una sorta di welfare mascherato, cioè sono fatte per mettere una pezza alla mancanza dell'occupazione. Capisci che questo crea un circolo vizioso spaventoso che va assolutamente interrotto. Quindi io dico, prendiamo il bene di questa voglia di cambiamento generalizzata e cerchiamo di ragionare insieme per cambiare veramente le carte dopo la sciagurata riforma del 2001 che ha messo un candelotto di dinamite nell'unità d'Italia, facendola saltare. L'Italia già era messa male, dopodiché dopo la riforma del 2001 che è quella che ha dato alle regioni questa struttura e questa forza, l'unità d'Italia è diventata una cosa che esiste vagamente solo nella Costituzione. Sì, tra l'altro ricordiamo, tu hai citato la Sicilia, noi abbiamo avuto ospite di recente l'assessore all'economia Baccei, che è uno da Firenze mandato da Renzi. È la prova del commissariamento in atto. Esatto, cioè... che ha cercato di far passare anche, per esempio, questa norma, è notizia di questi giorni, l'adeguamento norma nazionale gettoni e componenti dei consigli comunali a livello in Sicilia come a livello nazionale. Se fosse passata questa cosa, si sarebbero tolte 1.482 poltrone di assessori e consiglieri e risparmiati 48 milioni di euro l'anno. 48 milioni di euro l'anno così, adeguando, cioè il livello di numero di consiglieri e assessori per i comuni siciliani al livello del resto d'Italia. Non è passata, tra l'altro noi dovevamo avere ospite anche il questore dell'ARS Paolo Ruggirello, che salutiamo con tanto affetto, ma ha tenuto il cellulare spento, si vede che è lunedì mattina e si fa fatica a svegliarsi. Valeria Ciarambino, chiedo, è caduta la linea, allora recuperiamo Alessio da Venezia, buongiorno Alessio. Buongiorno a lei. Volevo concludere questo discorso. Dica Alessio. Sì, buongiorno. Niente, volevo intervenire relativamente a un intervento di un suo ospite che praticamente diceva che bisogna riportare la sanità pubblica nel dominio del controllo dello Stato centrale. Sì, sì. Io abito in Veneto, nel Veneto la sanità è un'eccellenza riconosciuta e direi anche invidiata dalle altre regioni. Dal mio punto di vista, riportare la sanità al controllo centrale vorrebbe dire semplicemente la regione Veneto dovrebbe pagare i debiti di altre regioni meno virtuose e non mi pare il modo corretto di risolvere i problemi. Il modo corretto dovrebbe essere quello di dare responsabilità alle persone che dirigono le varie ASL e nel caso in cui queste persone non le dirigano in maniera corretta vengono sostituite. Questo è il modo corretto. Per concludere, Buccini, tra tutte le interviste di governatori c'è anche la vicenda Cota e le famose mutande, mutandone, ma pantaloncini verdi, per cui è caduta. Qual è l'intervista che ti ha più colpito? Cioè il personaggio dei governatori intervistati, dei 10 governatori intervistati, che ti ha più colpito, sia in positivo o anche in negativo? Ma sai, io sono affezionato a tutte le interviste. Diciamo quella di Galan, che è fatta agli arresti domiciliari, cioè nella sua villa di Cinto Euganeo, che è anche corpo del reato perché la magistratura pensa che l'abbia ristrutturata con che la ristrutturazione sia una forma di tangente incassata, è drammatica perché c'è una questione anche personale, familiare, ma che ne so, quella di Piero Marrazzo, ex presidente, sì, della Regione Lazio, e lo stesso Roberto Cota, che mi colpiva per l'inconsapevolezza, cioè per l'idea, per la profonda convinzione di cui ti avevo detto prima, che i soldi pubblici si potessero gestire in modo del tutto privatistico, cioè se io voglio fare un regalo a un mio assessore, prendo i soldi pubblici e gli faccio un regalo. Volevo dire una cosa, mm-hmm, sul tuo ultimo ospite, su quel, sì, signore del Veneto che è intervenuto, che secondo me ci aiuta molto. Cioè il signore del Veneto, in perfetta buona fede, ha detto una cosa che io, ahimè, trovo agghiacciante, cioè noi italiani abbiamo perso totalmente il senso dell'unità nazionale. Quando lui dice, beh, in fondo noi siamo una regione che ha la sanità virtuosa, perché dobbiamo pagare? Si arrangino, è esattamente il problema, questo è il problema. Il problema è che gli altri non si devono arrangiare, il problema è questa, è l'Italia, non è il Veneto o la Calabria. Il male, il veleno più profondo che le regioni hanno instillato, che questo federalismo regionale sciagurato ha instillato in Italia, è esattamente questo senso di egoismo profondo, mm-hmm, che ormai si è radicato negli italiani, e quindi ci vorrà ben altro che la riforma delle regioni, che la controriforma delle regioni. Allora io ringrazio Valeria Ciarambino, che è candidata a presidente della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle, e Goffredo Buccini, che è inviato del Corriere della Sera. Potete acquistare il suo libro, è uscito da pochi giorni, Governatori, edito da Marsiglio, lo trovate ovviamente in libreria. Grazie a Goffredo Buccini. Il traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Allora, come sapete, sono le 8:48 minuti, questo è lo spazio che in genere dedichiamo a quelli che sono i nostri lavoratori, e voglio salutare uno che si professa in maniera molto molto umile, dico lavoratore della Ferrari, ecco, posso dire così, è Antonio Ghini che saluto. Antonio Ghini, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno, ho sentito che è malato, io le propongo, sì, intanto di venire a Maranello e a Modena, sì, così col balsamico, si guarisce, il mulatello, il parmigiano reggiano, il lambrutto, la sistemiamo subito. Ecco, sì. non ha più problemi. Ho un po' di febbre, ma che devo fare? Si tira avanti. Antonio Ghini, in realtà, non è solo lavoratore della Ferrari, è direttore dei due musei della Ferrari a Maranello e Modena, oltre che storico direttore generale della Ferrari. Vogliamo anche ricordare, insomma. No, adesso non esageriamo, no, nei ruoli. Io devo dire che ho la fortuna di occuparmi dei musei adesso, e soprattutto di avere la possibilità, di aver avuto la possibilità, insieme alle istituzioni e insieme al territorio, di fare un progetto che si chiama Discover Ferrari and Pavarotti Land, sì, mettendo insieme queste eccellenze, insieme anche a Bottura, al grande chef, per i 6 mesi dell'Expo far venire il più possibile turisti stranieri ma anche italiani, in una maniera molto funzionale, molto semplice, perché quando si parla di turismo si pensa alle città, uno arriva, sì, a Venezia, a Firenze, e lì è contento. Venire in un territorio è più complesso, per cui abbiamo messo delle navette che dal 1 maggio fino a fine ottobre, mm-hmm, con cadenza oraria collegano le due stazioni di alta velocità di Reggio Emilia, la Medio Padana e di Bologna, più tutte le località, appunto citavo prima gli ottimi prodotti, sì, del territorio, il museo Pavarotti, i musei Ferrari, quello di Maranello con una mostra nuova bellissima sui segreti della Ferrari, quello di Modena che sposa appunto Pavarotti a Enzo, e senza problemi vengono portati in giro a un costo molto molto molto contenuto, quindi è un'idea di turismo territoriale che credo possa essere un buono spunto per l'Italia, e che tra l'altro verrà, anche per altri, sì, verrà lanciata oggi, se non sbaglio, con una conferenza stampa, ed è qualcosa che intercetta appunto l'Expo, cioè uno viene qui magari da tutto il mondo per vedere l'Expo che parte tra 5 giorni, 6 giorni, e ha la possibilità anche da Milano di fare una visita ad alcune eccellenze territoriali, Pavarotti e Ferrari. Perché Pavarotti e Ferrari avete messo insieme? Beh, sono nati tutte e due a Modena, sono morti tutte e due a Modena, sono stati conosciuti e sono conosciuti nel mondo, hanno tifosi, e poi erano rispettatissimi, e poi erano ghiotti, avevano tutte le cose buone, tutte le cose buone di questo territorio che è pieno di energia, è pieno di valori, e che, come dico, noi abbiamo i 4 comuni collegati, che sono Modena, Sassuolo col comparto della ceramica, non Antola con la sua bellissima abbazia, tra l'altro offesa dal terremoto, ma visitabile in parte, e poi Maranello, beh, insomma, mettere insieme due musei Ferrari, più quello Pavarotti, più tutte le ghiottonerie che ci sono, più i monumenti, non è male. Non è male. Il passaporto dura 48 ore, ma si può anche dividere, cioè uno compra questo biglietto che chiamiamo passaporto Discover, poi c'è il sito Ferrari Pavarotti Land per sapere tutto, e con quello può venire una o in due giorni o in un giorno solo, perché in un giorno a scoprire tutto questo. Ma infatti com'è il sito, lo vogliamo ricordare, perché oggi lanciate questa iniziativa. È molto facile perché Ferrari Pavarotti Land, tutto attaccato, Ferrari Pavarotti Land. Land come terra. Comunque, come al solito, io dico sempre, scrivete anche una mail a noi, è 24 mattino, è radio24.it, se non avete colto bene, magari uno dice, perché uno a Ghini ascolta sempre in macchina, ah, non ho perso il sito, come bello, funziona? Poi non... Però ripetetemi domani c'è la rassegna stampa. Vabbè. Può fare una rassegna stampa lunghissima su tutto quello che si dirà Ferrari Pavarotti. Chissà se domani sarò ancora qui, vista la situazione fisica. Comunque allora oggi, venga a Modena. Oggi lo lanciate, e ovviamente è un'iniziativa che rimane per i sei mesi dell'Expo, quindi dal primo maggio tutti i giorni, sabati, domeniche, Ferragosto. Noi è per quello che dico, ma anche quando corre la Ferrari, anche quando c'è sempre. No. Milan, la cosa bella è che io lo scorso anno il Museo di Maranello ha fatto più di 330.000 visitatori, quindi una cosa da record assoluto, perché tutti paganti, lo sottolineo. E quando la Ferrari va bene e vince, abbiamo più visitatori, quindi aperti a venire il Gran Premio da noi, a festeggiare con noi, con Lambrusco e via di seguito. È un bel mondo da conoscere. Ottimamente. Allora, grazie ad Antonio Ghini per essere stato con noi. Pavarotti, Discover Ferrari e Pavarotti Land. Ma comunque scrivete a noi che vediamo tutto il sito per fare, se siete qui con l'Expo, anche un giro in quelle zone. C'erano ancora un paio di ascoltatori indietro, e allora li recupero. Franca da Torino, buongiorno, immagino sul tema delle regioni. Buongiorno, Franca. Alessandro, sì, volevo dire come a mio parere manca la correttezza da parte della maggior parte delle persone che lavorano nel campo della pubblica amministrazione. Beh, adesso però sa quanti ci sentono e che sobbalzeranno, diranno: io lavoro nella pubblica amministrazione, sono onestissimo, cara Franca. Con quello quindi che ha detto prima Federico da Torino, e quindi secondo lei, mi scusi Franca, è un problema di correttezza, però molti che la stanno ascoltando, dai 3.500 dipendenti pubblici, sobbalzeranno su queste frasi, però insomma questo è il suo parere. Franca, la ringrazio. Giuseppe da Carrara, chiudo con lei. Giuseppe. Sì, buongiorno, ascolti, io volevo fare un intervento molto breve, volevo suggerire al governatore della regione Toscana Rossi di andarsi a guardare un po' le piante organiche dell'azienda numero uno, l'azienda sanitaria numero uno, che tra l'altro c'ha quel buco famoso, perché da quello che io ho letto sulla stampa locale sembra che ci siano più dirigenti di dipendenti, quindi ci sono dirigenti che dirigono se stessi, è sempre la solita storia italiana di sempre, e in più così sembrerebbe che anche l'ospedale, diciamo, unico costruito dall'ospedale delle Apuane, sembra che ci siano già preventivati delle ulteriori spese, che non è ancora finito, per la stabilità del terreno. Chiaro, Giuseppe, no, ma è chiaro, metteremo queste cose in conto e le spediremo al governatore Rossi. Poi io dico sempre che se uno c'è qualcosa che non va in chi lo governa, ha l'arma del voto, cioè può votare o non votare una persona. La ringrazio, Giuseppe, chiudiamo con lei, con Lorenzo Nespoli in redazione, insieme a Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e il nostro Peter Bescapè in regia. Ce l'ho fatta nonostante la febbre, domani sarò qua, chi lo sa, 6:30, vedremo. 24 mattino.